Anna disse: «Di grazia, mio signore, per la tua vita, o mio signore, io sono quella donna che stava qui presso di te a pregare davanti al Signore. Ho pregato per avere questo bambino e il Signore mi ha concesso quanto gli ho chiesto. A mia volta lo dono al Signore. Per tutti i giorni che egli vivrà è ceduto al Signore». Poi adorarono il Signore. Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si eleva al Signore, si dilata la mia bocca contro chi mi odia, poiché gioisco per la tua salvezza. Non vi è santo come il Signore, poiché non vi è altri all'infuori di te, né vi è rupe come il nostro Dio. Non parlate più a lungo con aria superba, non esca parola arrogante dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio sapiente. Da Lui sono giudicate le azioni. L'arco dei prodi è spezzato, mentre i deboli si cingono di forza. I sazi vanno al lavoro per il pane, mentre gli affamati si riposano. Perfino la sterile genera 7 volte, mentre la madre di molti figli appassisce. Il Signore dà morte e dà vita, fa scendere agli inferi e ne fa risalire. Il Signore rende poveri e rende ricchi, umilia ma anche esalta. Solleva dalla polvere l'abietto, innalza il povero dalle immondizie per farlo sedere con i principi, e gli assegna un trono di gloria. Perché il Signore possiede le colonne della terra e pone su di esse il mondo. Veglia sui passi dei suoi devoti, mentre i perversi periscono nelle tenebre, poiché l'uomo non prevale per la forza. Gli avversari del Signore saranno stroncati, l'Altissimo tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà i confini della terra e darà potenza al suo re, e innalzerà la fronte del suo consacrato». Poi Elcana ritornò alla sua casa a Rama, mentre il bambino rimase al servizio del Signore alla presenza del sacerdote Eli. Or i figli di Eli erano uomini perversi. Essi non rispettavano il Signore né il diritto dei sacerdoti presso il popolo. Ogni volta che uno offriva un sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre si coceva la carne, con in mano un tridente, e lo ficcava nel caldaio o nel calderone o nella pentola o nella marmitta. Il sacerdote vi prendeva tutto quello che il tridente tirava su. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano là a Silo. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, veniva il servo del sacerdote e diceva a colui che sacrificava: «Dammi la carne da arrostire per il sacerdote. Egli infatti non accetterà carne cotta da te, ma cruda». Se l'uomo gli rispondeva: «Prima lascia bruciare il grasso e poi prenditi quanto desideri», egli replicava: «No, devi darla ora, altrimenti la prendo con la forza». Il peccato dei giovani era molto grave davanti al Signore, poiché quegli uomini disonoravano le offerte del Signore. Samuele stava al servizio del Signore come un fanciullo cinto di efod di lino. Inoltre sua madre gli faceva un piccolo manto e glielo portava ogni anno quando saliva con suo marito ad offrire il sacrificio annuale. Allora Eli benediceva Elcana e sua moglie dicendo: «Il Signore ti dia una discendenza da questa donna per il dono da lei fatto al Signore». Poi essi ritornavano al loro paese. Il Signore visitò Anna, ed ella concepì, e diede alla luce 3 figli e 2 figlie. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso il Signore. Eli era molto vecchio. Udiva tutto quello che facevano i suoi figli all'intero Israele, e che dormivano con le donne inservienti alla porta della tenda del convegno, e disse loro: «Perché fate simili cose? Io sento parlare delle vostre cattive azioni da parte di tutto il popolo. No, figli miei, non è buona la fama che io odo circolare in mezzo al popolo del Signore. Se un uomo pecca contro un uomo, Dio gli farà da arbitro. Ma se un uomo pecca contro il Signore, chi gli farà da arbitro? Ma essi non dettero ascolto alla voce del loro padre, poiché il Signore voleva farli perire. Invece il giovane Samuele cresceva in statura e in bontà, sia presso il Signore che presso gli uomini. Un uomo di Dio andò da Eli e gli disse: «Così dice il Signore: certo, io mi sono rivelato alla famiglia di tuo padre mentre era in Egitto sotto il dominio della casa del Faraone. L'ho scelta tra tutte le tribù di Israele come mio sacerdote per salire sul mio altare, offrire incenso, portare l'efod davanti a me, e ho concesso alla famiglia di tuo padre tutti gli olocausti dei figli di Israele. Perché dunque disprezzate il mio sacrificio e la mia offerta che ho ordinato, e tu onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi con la parte migliore di tutte le offerte di Israele, mio popolo? Perciò, oracolo del Signore, Dio di Israele, io certo avevo detto che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero camminato davanti a me per sempre, ma adesso, oracolo del Signore, non sia mai. Poiché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano sono vilipesi. Ecco, verrà il tempo in cui stroncherò il tuo vigore e il vigore della casa di tuo padre, in modo che non ci sia un anziano nella tua casa. Vedrai, nemico della dimora, tutto il bene che sarà fatto a Israele. Nella tua casa non vi sarà mai più un anziano. Tuttavia non reciderò qualcuno dei tuoi dal mio altare per consumare i tuoi occhi e affliggere la tua anima, ma tutta la progenie della tua casa morirà nel fiore dell'età. Il segno per te sarà quello che accadrà ai tuoi due figli, Ofni e Fines. Moriranno tutti e due nello stesso giorno, e susciterò per me un sacerdote fedele che agirà secondo quello che è nel mio cuore e nella mia anima. Gli edificherò una casa duratura, ed egli camminerà davanti al mio consacrato per sempre. Ogni superstite della tua casa andrà a prostrarsi davanti a lui per un poco d'argento e un tozzo di pane, e dirà: ammettimi a qualche ufficio sacerdotale affinché possa mangiare un boccone di pane. Il giovanetto Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. In quei giorni la parola di Dio era preziosa, perché le visioni non erano frequenti. Un certo giorno Eli stava dormendo nella sua cella. I suoi occhi avevano cominciato a indebolirsi ed egli non riusciva a vedere. La lampada di Dio non si era ancora spenta mentre Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove era l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, che rispose: eccomi. E corse da Eli dicendo: eccomi, dato che mi hai chiamato. Questi rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Egli se ne andò a dormire. Il Signore chiamò una seconda volta: Samuele. Samuele si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, mi hai chiamato. Questi rispose: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. Samuele ancora non conosceva il Signore, né gli era stata rivelata la parola del Signore. Il Signore chiamò di nuovo per la terza volta: Samuele. Questi si alzò e, andato da Eli, disse: eccomi, mi hai chiamato. Allora Eli capì che il Signore stava chiamando il ragazzo. Disse quindi Eli a Samuele: va a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele se ne andò a dormire nel suo posto. Allora venne il Signore, si pose accanto e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che farà rintronare le orecchie di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli tutto quello che ho predetto riguardo alla sua casa dall'inizio alla fine. Gli annunzio che sto per punire la sua casa per sempre per il delitto da lui conosciuto, che i suoi figli disprezzavano Dio e non li ha corretti. Per questo giuro alla casa di Eli, non sarà espiato in eterno il delitto della casa di Eli, né con sacrificio né con oblazione. Samuele dormì fino al mattino, poi aprì le porte della casa del Signore. Samuele aveva timore di riferire la visione a Eli, ma Eli chiamò Samuele dicendo: «Samuele, figlio mio». E lui: «Eccomi». Quello riprese: «Che cosa ti ha detto? Su, non me la tenere nascosta. Dio ti faccia questo e peggio ancora se mi nascondi qualcosa di tutto quello che ti ha detto». Allora Samuele gli manifestò ogni singola cosa, non gli nascose niente. Quello disse: «Egli è il Signore, faccia ciò che è bene ai suoi occhi». Samuele poi diventò grande. Il Signore era con lui e non fece cadere a terra nessuna di tutte le sue parole. Tutto Israele, da Dan a Bersabea, seppe che Samuele era accreditato come profeta del Signore. Il Signore continuò a manifestarsi a Silo, perché egli si rivelava a Samuele e a Silo con la sua parola. Eli era molto vecchio e i suoi figli continuavano sempre peggio con la loro condotta davanti al Signore. La parola di Samuele fu rivolta a tutto Israele. In quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele, e Israele uscì in guerra contro i Filistei. Si accamparono presso Eben Ezer, mentre i Filistei si accamparono in Afek. I Filistei si schierarono contro Israele e il combattimento divampò. Israele fu battuto dai Filistei, che uccisero tra le schiere sul campo circa 4.000 uomini. Quando il popolo rientrò nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: «Perché il Signore ci ha sconfitto oggi davanti ai Filistei? Andiamoci a prendere da Silo l'arca dell'alleanza del Signore, perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalla mano dei nostri nemici». Il popolo mandò a Silo a prendere l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. C'erano con l'arca dell'alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e Fines. Quando l'arca dell'alleanza giunse all'accampamento, tutto Israele esplose in una grande acclamazione da far tremare la terra. I Filistei, udito il frastuono dell'acclamazione, dissero: «Che significa il frastuono di questa straordinaria acclamazione nel campo degli ebrei?» Poi seppero che l'arca del Signore era giunta nell'accampamento. Allora i Filistei si spaventarono. Dicevano infatti: «È giunto Dio nell'accampamento». Poi aggiunsero: «Guai a noi! Non era così nei giorni scorsi. Guai a noi! Chi ci scamperà dalla mano di questi dei potenti? Queste sono le divinità che hanno colpito l'Egitto con ogni specie di piaghe nel deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, per non diventare schiavi degli ebrei come essi furono vostri schiavi. Siate uomini e combattete». Poi i Filistei attaccarono battaglia e Israele fu sbaragliato. Ognuno se ne fuggì alla sua tenda. La sconfitta fu veramente grande. Caddero 30.000 fanti di Israele. L'arca di Dio fu catturata e i due figli di Eli, Ofni e Fines, morirono. Un uomo di Beniamino fuggì di corsa dall'accampamento e giunse a Silo quel giorno stesso con le vesti stracciate e la polvere sulla testa. Quando arrivò, egli stava seduto sul seggio presso la porta, scrutando la via, perché il suo cuore era in ansia per l'arca di Dio. Quell'uomo andò a portare la notizia nella città, e tutta la città levò alte grida. Eli, udito il rumore delle grida, domandò: «Che significa il rumore di questo tumulto?» Quell'uomo in fretta andò a portare la notizia a Eli. Egli aveva 98 anni, aveva gli occhi fissi e non riusciva più a vedere. Quell'uomo disse a Eli: «Io vengo dall'accampamento e sono fuggito oggi stesso dal campo». Eli domandò: «Com'è andata la cosa, figlio mio?» Il messaggero rispose dicendo: Israele è fuggito di fronte ai Filistei. C'è stata anche una enorme strage del popolo. I tuoi due figli, Ofni e Fines, sono morti e l'arca di Dio è stata catturata. Quando gli nominò l'arca di Dio, Eli cadde dal seggio all'indietro dal lato della porta, si ruppe la nuca e morì. Egli infatti era vecchio e pesante, era stato giudice di Israele 40 anni. Sua nuora, moglie di Fines, incinta e prossima al parto, quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata catturata e che erano morti suo suocero e suo marito, si accasciò e partorì, perché assalita dalle doglie. Mentre stava sul punto di morire, le assistenti dicevano: «Non temere, perché hai dato alla luce un bambino». Essa non rispose e non vi prestò attenzione, ma chiamò il bambino Ichabod, volendo dire «se n'è andata la gloria da Israele», riferendosi alla cattura dell'arca di Dio, al suocero e a suo marito. Disse dunque «se n'è andata la gloria da Israele», perché l'arca di Dio era stata catturata. I Filistei, catturata l'arca di Dio, la portarono da Eben Ezer ad Asdod. I Filistei, presa poi l'arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la deposero presso Dagon. Gli abitanti di Asdod, alzatisi il giorno dopo, andarono al tempio di Dagon e guardarono. Ed ecco che Dagon giaceva faccia a terra davanti all'arca del Signore. Allora presero Dagon e lo rimisero al suo posto. L'indomani si levarono di buon mattino, ed ecco che Dagon stava faccia a terra davanti all'arca del Signore. La testa di Dagon e le palme delle sue mani erano in frantumi presso la soglia. Solo il torso di Dagon era rimasto intatto. Per questo i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nel tempio di Dagon non calpestano la soglia di Dagon ad Asdod fino al giorno d'oggi. Poi il Signore fece pesare la sua mano sugli abitanti di Asdod e li devastò, colpendo con bubboni Asdod e il suo territorio. Gli abitanti di Asdod, visto come andavano le cose, dissero: «Non rimanga presso di noi l'arca del Dio di Israele, perché la sua mano è pesante contro di noi e contro il nostro Dio Dagon». Fecero adunare presso di loro tutti i capi dei Filistei e dissero: «Che dobbiamo fare dell'arca del Dio di Israele?» Risposero: «Si porti a Gat l'arca del Dio di Israele». Così trasferirono l'arca del Dio di Israele. Dopo averla trasportata, la mano del Signore fu su quella città con un enorme panico. Egli colpì gli abitanti di quella città dal più piccolo al più grande. Scoppiarono bubboni anche ad essi. Allora mandarono l'arca di Dio ad Accaron. Quando giunse l'arca di Dio ad Accaron, i cittadini protestarono: «Mi hanno condotto l'arca del Dio di Israele per far morire me e la mia gente». Fatti adunare tutti i capi dei Filistei, dissero: «Rimandate l'arca del Dio di Israele perché ritorni al suo luogo e non faccia più morire né me né il mio popolo». Difatti vi era in tutta la città una costernazione mortale. La mano di Dio si faceva sentire là molto pesante. Gli uomini che non erano morti furono colpiti da bubboni e il gemito della città salì al cielo. L'arca del Signore rimase nel territorio dei Filistei 7 mesi. Allora i Filistei si rivolsero ai sacerdoti e agli indovini dicendo: «Che cosa dobbiamo fare dell'arca del Signore? Fateci sapere in che modo la dobbiamo rimandare alla sua sede». Quelli risposero: «Se voi volete rimandare l'arca del Dio di Israele, non la rimandate senza doni, ma dovete renderle un dono espiatorio. Allora guarirete e saprete perché la sua mano non si allontanava da voi». Domandarono:

Da quando l'arca si stabilì a Kiriat Yearim passò molto tempo, una ventina d'anni, quando tutta la casa di Israele si volse con lamenti verso il Signore. Allora Samuele così parlò a tutta la casa di Israele: «Se ritornate con tutto il vostro cuore al Signore, togliete via da mezzo a voi gli dei stranieri e le astarti. Fissate il vostro cuore nel Signore e rendete culto soltanto a Lui. Allora Egli vi strapperà dalle mani dei Filistei». I figli di Israele tolsero via i Baal e le astarti e prestarono culto soltanto al Signore. Disse poi Samuele: «Radunate tutto Israele a Mizpa e io intercederò per voi presso il Signore». Radunatisi a Mizpa, attinsero acqua e la versarono al cospetto del Signore. In quel giorno fecero digiuno e confessarono: «Abbiamo peccato contro il Signore». Samuele giudicò i figli di Israele a Mizpa. I Filistei seppero che i figli di Israele s'erano radunati a Mizpa. Allora i capi dei Filistei salirono contro Israele. I figli di Israele, uditolo, ebbero paura dei Filistei. Dissero dunque i figli di Israele a Samuele: «Non cessare di supplicare per noi il Signore, Dio nostro, perché ci salvi dalla mano dei Filistei». Allora Samuele prese un agnello da latte e lo offrì per intero in olocausto al Signore. Poi implorò il Signore in favore di Israele ed egli lo esaudì. Mentre Samuele stava offrendo il sacrificio, i Filistei avanzarono in battaglia contro Israele. Ma il Signore in quel giorno tuonò con grande fragore contro i Filistei, portando lo scompiglio, ed essi furono sconfitti di fronte a Israele. Gli uomini di Israele, usciti da Mizpa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Betcar. Samuele, presa una pietra, la drizzò tra Mizpa e Jesana e la chiamò Ebenezer, dicendo: «Fin qui ci ha aiutato il Signore». I Filistei furono repressi e non tentarono più di entrare nei confini di Israele, e la mano del Signore pesò sui Filistei per tutti gli anni di Samuele. Le città prese dai Filistei a Israele ritornarono a Israele, da Accaron fino a Gat, e Israele liberò quei territori dalle mani dei Filistei. Ci fu anche pace tra Israele e gli Amorrei. Samuele fu giudice su Israele per tutto il tempo della sua vita. Ogni anno andava in giro passando per Betel, Galgala e Mizpa, esercitando l'ufficio di giudice in Israele in tutti questi luoghi. Il suo recapito però era a Rama, poiché là era la sua casa e là faceva da giudice su Israele. Ivi costruì un altare al Signore. Samuele, quando diventò vecchio, costituì i suoi figli giudici di Israele. Il primogenito si chiamava Joel, il secondo Abia. Facevano da giudici a Bersabea. Ma i suoi figli non camminavano sulle sue orme, deviavano dietro il lucro, accettavano doni e deformavano il giudizio. Allora si radunarono tutti gli anziani di Israele, andarono da Samuele a Rama e gli dissero: «Ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Ora stabilisci su di noi un re che ci governi, come hanno gli altri popoli». Questa cosa dispiacque a Samuele, perché avevano detto: «Dacci un re che ci governi». Perciò Samuele implorò il Signore. Il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti hanno detto, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non regni più su di essi. conforme al comportamento costante che hanno tenuto dal giorno in cui io li trassi fuori dall'Egitto fino al giorno d'oggi, abbandonando me per servire altri dei, così agiscono nei tuoi confronti. Ma ora ascolta la loro voce. Però fa loro una dichiarazione e annunzia loro il diritto del re che regnerà su di essi. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: «Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Si prenderà i vostri figli per preporli ai suoi carri e ai suoi cavalli, perché corrano davanti al suo cocchio, per costituirli capi di 1000 e capi di 50, per arare la sua campagna, per mietere la sua messe, per fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie come profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne e i vostri oliveti migliori, e li darà ai suoi ministri. Prenderà la decima parte delle vostre sementi e delle vostre vigne, e la darà ai suoi eunuchi e ai suoi ministri. Prenderà inoltre i vostri servi e le vostre serve, i vostri giovani migliori, così pure i vostri asini, e li destinerà ai suoi lavori. Prenderà la decima parte delle vostre greggi, e voi stessi diventerete suoi schiavi. Voi manderete grida in quel giorno di fronte al vostro re che vi siete scelti, ma il Signore non vi risponderà. Il popolo non volle dare ascolto alla voce di Samuele e disse: «No, ma un re sarà sopra di noi. Così saremo anche noi come tutte le nazioni. Il nostro re ci governerà, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie». Samuele ascoltò tutte le parole del popolo e le riferì al Signore. Il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la loro voce e fa regnare un re su di loro». Allora Samuele disse agli uomini di Israele: «Ognuno ritorni alla sua città». C'era un uomo di Beniamino di nome Chis, figlio di Abiel, figlio di Zeror, figlio di un uomo beniaminita, un valoroso soldato. Questi aveva un figlio di nome Saul, distinto e bello. Non vi era un uomo tra i figli di Israele più bello di lui. Era dalle spalle in su il più alto di tutto il popolo. Si erano sperdute le asine di Chis, padre di Saul. Allora Chis disse a suo figlio Saul: «Prendi con te uno dei tuoi servi e va a cercare le asine». Essi attraversarono la montagna di Efraim e passarono per la terra salisa, ma non trovarono niente. Attraversarono la terra di Saalim, ma non c'erano. Poi percorsero la terra di Beniamino, ma non trovarono niente. Quando giunsero nella terra di Zuf, Saul disse al servo che lo accompagnava: «Via, ritorniamo, altrimenti mio padre, lasciate da parte le asine, si preoccuperà per noi». Gli rispose: «Ecco, c'è in questa città un uomo di Dio molto stimato. Tutto quello che egli dice si avvera certamente. Andiamo là. Forse ci darà schiarimenti sul viaggio che abbiamo intrapreso». Saul rispose al servo: «Ecco, ci andremo, ma cosa porteremo all'uomo? Il pane è finito nei nostri recipienti. Non abbiamo un dono da portare all'uomo di Dio. Che cosa abbiamo con noi?» Il servo rispose a Saul e disse: «Ecco, mi trovo in mano un quarto di siclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio perché ci dia schiarimenti sulla nostra via». Una volta in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: «Su, andiamo dal veggente», perché il profeta di oggi era chiamato in antico il veggente. Disse Saul al servo: Ottima la tua proposta. Su, andiamo. E andarono alla città dove era l'uomo di Dio. Mentre stavano salendo il pendio della città, incontrarono alcune giovani che uscivano ad attingere acqua e domandarono loro: «C'è qui il veggente?» Esse risposero: «Sì, ecco, ti precede di poco. Affrettati. Oggi stesso è giunto in città, perché oggi il popolo ha un sacrificio sulla collina. Come entrerete in città, certamente lo troverete prima che salga sulla collina per il banchetto. Il popolo, infatti, non mangia finché egli non sia giunto, perché è lui che benedice il sacrificio. Dopo ciò, gli invitati cominciano a mangiare. Ora salite, perché lo troverete immediatamente». Essi salirono in città. Mentre stavano entrando verso il centro della città, ecco che Samuele stava uscendo verso di loro per salire sulla collina. Il giorno avanti la venuta di Saul, il Signore aveva fatto questa rivelazione a Samuele: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino, e tu lo consacrerai principe sul mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalla mano dei Filistei. Infatti ho volto lo sguardo al mio popolo, perché la sua implorazione è giunta fino a me». Appena Samuele vide Saul, il Signore l'avvertì: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Egli reggerà il mio popolo». Saul si avvicinò a Samuele nel mezzo della porta e disse: «Indicami per favore dov'è la casa del veggente». Samuele rispose a Saul: «Sono io il veggente. Sali davanti a me sulla collina. Oggi mangerete con me. Domattina ti rimanderò e ti mostrerò tutto quello che hai nel tuo cuore. Riguardo alle asine che ti andarono perdute 3 giorni fa, non te ne preoccupare, sono state ritrovate. Ma per chi è tutto quello che desidera Israele, se non per te e per tutta la casa di tuo padre?» Saul rispose: «Non sono forse un beniaminita, una delle più piccole tribù di Israele? La mia famiglia è la minore tra le famiglie della tribù di Beniamino. Perché mi dici tali cose?» Samuele prese Saul e il suo servo e li introdusse nella sala, dando loro il primo posto tra gli invitati. Erano circa 30 persone. Poi Samuele disse al cuoco: «Servi la porzione che ti ho affidato, dicendoti: riponila presso di te». Il cuoco portò la coscia e il contorno e li pose davanti a Saul. Samuele soggiunse: «Ecco, poni davanti a te quello che è rimasto. Mangia, perché a suo tempo fu messo da parte per te, affinché lo mangiassi con gli invitati». Così quel giorno Saul mangiò con Samuele. Poi discesero dalla collina in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza. Al sorgere dell'aurora, Samuele chiamò Saul sulla terrazza e disse: «Alzati su, che voglio congedarti». Saul si alzò e tutti e due, lui e Samuele, uscirono fuori. Mentre scendevano alla periferia della città, Samuele disse a Saul: «Ordina al tuo servo che ci preceda, ma tu fermati un momento, che ti comunicherò la parola di Dio». Quello andò oltre. Allora Samuele prese l'ampolla dell'olio e la versò sul capo di lui e poi lo baciò dicendo: «Non è forse il Signore che ti ha consacrato principe sul suo popolo, su Israele? Tu reggerai il popolo del Signore e lo salverai dal potere dei suoi nemici tutti intorno. Questo sarà il segno per te che il Signore ti ha consacrato sulla sua eredità. Oggi, partendo da me, incontrerai 2 uomini presso il sepolcro di Rachele sul confine di Beniamino, a Zelzac. Essi ti diranno: sono state ritrovate le asine che eri andato a cercare. Ecco che tuo padre, dimenticata la faccenda delle asine, è in ansia per voi, dicendo: che devo fare per mio figlio? Tu, oltrepassato quel luogo, arriverai alla quercia del Tabor. Là ti incontreranno tre uomini che salgono verso Dio in Betel. Uno porterà tre capretti, l'altro porterà tre pagnotte di pane e il terzo porterà un'otre di vino. Essi ti saluteranno e ti offriranno due pani che tu accetterai dalle loro mani. Dopo ciò giungerai a Gaba di Dio, dove c'è il presidio dei Filistei, e mentre entrerai in città ti imbatterai in uno stuolo di profeti che scendono dall'altura preceduti da arpa e tamburello, flauto e cetra, in atteggiamento da profeti. Allora irromperà su di te lo spirito del Signore e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo. Quando ti saranno accaduti questi segni, agisci secondo l'occasione, perché Dio è con te. Mi precederai a Galgala, ed ecco che io verrò da te per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione. Aspetterai 7 giorni finché io venga da te. Allora ti indicherò quello che dovrai fare. Quando voltò le sue spalle per lasciare Samuele, Dio gli trasformò il cuore, e tutti quei segni si avverarono in quello stesso giorno. Giunti là a Gabaa, ecco che gli venne incontro un gruppo di profeti. Allora lo spirito di Dio irruppe su di lui, ed egli si mise a fare il profeta in mezzo ad essi. Accadde che chi lo conosceva da tempo, quando lo vide fare il profeta tra i profeti, si dicevano l'un l'altro: che è successo al figlio di Chis? Perfino Saul è tra i profeti. Uno del luogo disse: e chi è il loro padre? Per questo motivo diventò proverbiale il detto: perfino Saul è tra i profeti. Finito di agire da profeta, giunse alla collina. Lo zio di Saul domandò a lui e al suo servo: dove siete andati? Rispose: a cercare le asine, ma visto che non c'erano, siamo andati da Samuele. Riprese lo zio di Saul: raccontami quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose a suo zio: ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate. Ma il fatto della regalità di cui aveva parlato Samuele non glielo raccontò. Samuele convocò il popolo presso il Signore a Mizpa e disse ai figli di Israele: così dice il Signore Dio di Israele: io ho tratto Israele dall'Egitto e vi ho liberato dalla mano dell'Egitto e dalla mano di tutti i regni che vi opprimevano. Ma voi oggi rigettate il vostro Dio, Lui che vi salva da tutti i vostri mali e dalle vostre angustie, e gli dite: costituisci un re su di noi. Or dunque presentatevi davanti al Signore per tribù e per casati. Samuele fece avvicinare tutte le tribù di Israele, e la sorte cadde sulla tribù di Beniamino. Fece avvicinare la tribù di Beniamino per parentadi, e la sorte designò il parentado di Matri. Fece allora avvicinare il parentado di Matri per individui, e la sorte designò Saul, figlio di Chis. Lo ricercarono, ma non fu trovato. Consultarono ancora il Signore. L'uomo è venuto qui? Rispose il Signore: eccolo, sta nascosto tra i bagagli. Corsero a prenderlo di là, ed egli si presentò in mezzo al popolo. Era più alto di tutti dalla spalla in su. Allora Samuele disse a tutto il popolo: avete veduto dunque quello che il Signore si è eletto? non ce n'è uno come lui fra tutto il popolo. Allora tutto il popolo acclamò gridando: «Viva il re!» Allora Samuele proclamò al popolo il diritto della regalità, lo scrisse in un libro e lo depose davanti al Signore. Poi Samuele congedò tutto il popolo, ognuno a casa sua. Anche Saul andò a casa sua a Gabaa e lo seguirono i valorosi, a cui Dio aveva toccato il cuore. Ma certi maligni dissero: «Che salvezza ci porterà questo tale?» E così lo disprezzarono e non gli portarono doni. Ma egli rimase come chi non sente. Nacas l'ammonita andò ad accamparsi contro Jabes di Galaad. Allora tutti gli uomini di Jabes dissero a Nacas: «Scendi a patti con noi e ti serviremo». Rispose loro Nacas l'ammonita: «A questa condizione verrò a patti con occhio destro, lo farò ad infamia di tutto Israele». Gli risposero gli anziani di Jabes: «Concedici 7 giorni per mandare messaggeri in tutto il territorio di Israele, e se non troveremo chi ci salva, ci arrenderemo a te». I messaggeri andarono a Gabaa di Saul e riferirono le cose al popolo. Allora tutto il popolo alzò grida e pianse. Ecco che Saul stava tornando dietro i buoi dal campo. Saul domandò: «Che cos'ha il popolo che piange?» Gli riferirono le parole degli uomini di Jabes. Allora irruppe lo spirito di Dio su Saul, appena questi udì tali cose, e la sua ira si accese furente. Prese un paio di buoi e li fece a pezzi. Poi li spedì in tutto il territorio di Israele per mezzo di messaggeri, dicendo: «Chiunque non esce dietro Saul e dietro Samuele riceverà un tale trattamento per il suo bestiame». Allora il terrore del Signore si sparse sul popolo, ed essi uscirono compatti come un uomo solo. Saul li passò in rassegna a Bezek. I figli di Israele erano 300.000 e gli uomini di Giuda 30.000. Poi dissero ai messaggeri che erano venuti: «Così direte agli abitanti di Jabes di Galaad: domani, quando il sole comincerà a scaldare, avrete il soccorso». I messaggeri rientrarono e lo annunziarono agli uomini di Jabes, che ne gioirono. Allora gli uomini di Jabes dissero: «Domani usciremo da voi e ci farete tutto quello che vi piacerà». Il giorno seguente Saul dispose il popolo in 3 schiere, le quali, penetrate in mezzo all'accampamento sul far del mattino, batterono Ammon fino al caldo del giorno. I superstiti poi si sbandarono. Non ne rimasero 2 insieme. Allora il popolo disse a Samuele: «Chi è che ha detto: Saul regnerà su di noi? Consegnateci quegli uomini e li metteremo a morte». Rispose Saul: «Oggi nessuno sarà messo a morte, perché oggi il Signore ha operato la salvezza in Israele». Allora Samuele disse al popolo: «Venite, andiamo a Galgala per inaugurarvi il regno». Tutto il popolo andò a Galgala, e là riconobbe re Saul davanti al Signore. Là offrirono sacrifici di comunione davanti al Signore, e là Saul si rallegrò oltremodo insieme con tutti gli uomini di Israele. Samuele disse a tutto Israele: «Ecco, ho dato ascolto alla vostra voce in tutto quello che mi avete detto, e ho costituito un re su di voi. Ed ora ecco che il re incede davanti a voi. Quanto a me, sono vecchio, con i capelli bianchi, e i miei figli, eccoli, sono con voi. Io ho condotto la mia vita davanti a voi dalla giovinezza fino a questo giorno. Eccomi, rispondetemi davanti al Signore e davanti al suo consacrato. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? A chi ho fatto estorsione? Chi ho oppresso? Dalla mano di chi ho accettato un prezzo di riscatto velandomi gli occhi con esso? Ve lo restituirò. Risposero: non ci hai fatto estorsioni, non ci hai oppressi e non hai accettato niente dalla mano di nessuno. Soggiunse loro: è testimone il Signore contro di voi ed è testimone il suo consacrato in questo giorno. Non avete trovato niente nella mia mano. Risposero: è testimone. Samuele disse al popolo: è testimone il Signore che ha stabilito Mosè e Aronne e ha tratto fuori i vostri padri dalla terra d'Egitto. Ora presentatevi perché voglio denunciare a voi davanti al Signore e annunziarvi tutte le opere di bontà che il Signore ha fatte a voi e ai vostri avi. Quando Giacobbe entrò in Egitto e gli egiziani lo oppressero, i vostri antenati si rivolsero con gemiti al Signore, ed egli mandò Mosè e Aronne che fecero uscire i vostri padri dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo. Ma essi dimenticarono il Signore loro Dio, ed egli li dette in potere di Sisara, capo dell'esercito di Azor, e in potere dei Filistei, e in potere del re di Moab, i quali mossero loro guerra. Essi si rivolsero con gemiti al Signore e dissero: abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito i Baal e le Astarti. Ma ora salvaci dalla mano dei nostri nemici e saremo tuoi servi. Allora il Signore mandò Jerubbaal e Barak, Jefte e Samuele, e vi liberò dalla mano dei vostri nemici all'intorno, e siete vissuti nella sicurezza. Avete veduto che Nacas, re dei figli di Ammon, è venuto contro di voi, e mi avete detto: no, un re regni su di noi, mentre il Signore, vostro Dio, è il vostro re. Ma ora ecco il re che avete scelto e avete richiesto. Ecco, il Signore ha costituito un re su di voi. Se temerete il Signore e lo servirete e darete ascolto alla sua voce senza disobbedire al comando del Signore, e voi e il re che regna su di voi seguirete il Signore vostro Dio, bene. Ma se non darete ascolto alla voce del Signore e sarete ribelli al comando di Lui, allora la mano del Signore sarà contro di voi e contro i vostri padri. Proprio adesso state a vedere il grande prodigio che il Signore sta per compiere davanti ai vostri occhi. Non è oggi la mietitura del grano? Io invocherò il Signore ed egli manderà tuoni e pioggia. Comprendete e vedete il male che avete fatto chiedendo per voi un re è grande agli occhi del Signore. Allora Samuele invocò il Signore, ed egli mandò tuoni e pioggia in quel giorno. Così tutto il popolo ebbe gran timore del Signore e di Samuele. Tutto il popolo disse a Samuele: prega il Signore Dio tuo per i tuoi servi, perché non ci colga la morte. Infatti abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati un altro male, chiedendo per noi un re. Rispose Samuele al popolo: non abbiate paura. Sì, voi avete fatto tutto questo male, però non vogliate allontanarvi dal Signore, ma servite a Lui con tutto il vostro cuore. Non dovete deviare, perché seguireste cose vuote che non vi portano fortuna e non vi possono salvare, proprio perché esse sono cose vuote. Certo, il Signore non rigetterà il suo popolo a causa del suo grande nome, perché egli si è compiaciuto di costituirvi suo popolo. Quanto a me, non sia mai che io pecchi contro il Signore cessando di pregare per voi, anzi vi istruirò nella buona e retta via. Temete dunque il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Osservate quale grande cosa abbia fatto per voi. Ma se vi ostinate a fare il male, sia voi che il vostro re perirete. Saul aveva 30 anni quando diventò re e regnò 40 anni su Israele. Saul si scelse 3.000 uomini da Israele. 2.000 erano con Saul a Michmas e sul monte di Betel. 1.000 erano con Jonata a Gaba di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Jonata batté il presidio dei Filistei che si trovava a Gaba, ma lo riseppero i Filistei. Allora Saul suonò il corno in tutto il paese dicendo: «Ascoltino gli ebrei». Tutto Israele udì e disse: «Saul ha battuto il presidio dei Filistei, Israele si è anche reso odioso ai Filistei». Allora il popolo fu richiamato a Galgala al seguito di Saul. I Filistei intanto si erano radunati per far guerra contro Israele. 30.000 carri, 6.000 cavalieri e una truppa numerosa come l'arena che è in riva al mare. Salirono e si accamparono a Michmas, ad oriente di Bet-Aven. Quando gli israeliti si accorsero di trovarsi in angustia e la gente era incalzata, si nascosero nelle caverne, nelle boscaglie tra le balze, nei sotterranei e nelle cisterne. Alcuni ebrei passarono il Giordano verso la terra di Gad e il Galaad. Mentre Saul era a Galgala, tutto il popolo che lo seguiva tremava dalla paura. Attese 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele, ma Samuele non arrivò a Galgala, cosicché il popolo si allontanava da lui. Disse allora Saul: «Portatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione». Ed offrì l'olocausto. Appena finito di offrire l'olocausto, ecco arrivare Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo. Samuele domandò: «Che cosa hai fatto?» Saul rispose: «Ho veduto che il popolo si allontanava da me e tu non eri venuto al giorno stabilito, mentre i Filistei si trovano adunati a Michmas. Allora ho detto: ora scenderanno i Filistei verso di me a Galgala, mentre io non ho propiziato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto». Samuele rispose a Saul: «Hai agito stoltamente, non osservando il comando che ti ha dato il Signore tuo Dio, perché ora il Signore avrebbe stabilito per sempre la tua regalità su Israele. Ora invece la tua regalità non permarrà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Lo ha designato principe sul suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva comandato». Samuele si alzò, risalì da Galgala e se ne andò per la sua via. Il resto del popolo salì ad incontrare i guerrieri al seguito di Saul e giunse da Galgala a Gaba di Beniamino. Saul passò in rassegna la truppa che si trovava con lui. Erano circa 600 uomini. Mentre Saul, suo figlio Jonata e la truppa che si trovava con loro erano stazionati a Gaba di Beniamino, i Filistei erano accampati a Michmas. Dal campo dei Filistei fece irruzione il gruppo guastatori diviso in 3 pattuglie. una pattuglia si diresse sulla via di Ofra verso la terra di Sual. Un'altra pattuglia si diresse sulla via di Bet-Coron. La terza pattuglia si diresse sulla via del confine che dà sulla valle di Zeboim verso il deserto. Allora non si trovava un fabbro in tutto il paese di Israele, perché i filistei dicevano che gli ebrei non facciano spade né lance. Così ogni israelita scendeva dai filistei per affilare il proprio vomere, lama scure o lama del vomere. L'affilatura costava 2/3 di siclo per il vomere e le lame e 1/3 l'affilatura delle scuri e del pungolo. E così nel giorno della battaglia non si trovava una spada né una lancia in mano a tutto il popolo che era con Saul e con Jonata. Ne fu trovata solo una per Saul e per suo figlio Jonata. Intanto una postazione di filistei uscì verso il passo di Michmas. Un giorno Jonata, figlio di Saul, disse al suo scudiero: «Su, portiamoci verso la postazione dei filistei che è dall'altra parte». Ma non avvertì suo padre. Risiedeva all'estremità di Gaba, sotto il melograno che è a Migron. La sua truppa era di circa 600 uomini. Achia, figlio di Achitub, fratello di Icabod, figlio di Fineas, figlio di Eli, sacerdote del Signore in Silo, indossava l'efod. La truppa non sapeva che Jonata se ne fosse andato. Tra le gole tra cui Jonata cercava di passare verso la postazione dei filistei, c'è un dente di roccia da un lato e un dente di roccia dall'altro. Uno si chiama Bozez e l'altro Sene. Il primo dente sporge da settentrione verso Michmas e il secondo da mezzogiorno verso Gaba. Jonata disse al suo scudiero: «Su, portiamoci verso la postazione di quegli incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, perché il Signore non ha difficoltà a salvare in molti o in pochi». Lo scudiero rispose: «Fa tutto quello che hai nel tuo cuore. Prosegui. Eccomi con te secondo il tuo desiderio». Disse Jonata: «Ecco, noi ci portiamo verso quegli uomini e ci faremo vedere da loro. Se ci diranno: aspettate finché non giungiamo da voi, allora resteremo sul posto senza salire verso di loro. Se invece diranno: salite verso di noi, allora saliremo, perché il Signore li ha dati in nostro potere. Questo è per noi il segno». I due si fecero vedere dal presidio dei filistei, e i filistei esclamarono: «Ecco che gli ebrei sbucano dalle caverne dove si erano rintanati». Poi gli uomini della guarnigione rivolsero la parola a Jonata e al suo scudiero dicendo: «Salite da noi, vi faremo sapere una cosa». Disse Jonata al suo scudiero: «Sali dietro di me, perché il Signore li ha posti in potere di Israele». Jonata si arrampicò con le mani e con i piedi, e il suo scudiero dietro di lui. Quelli cadevano davanti a Jonata mentre il suo scudiero li finiva dietro di lui. La prima strage compiuta da Jonata e dal suo scudiero fu di circa 20 uomini in appena mezzo iugero di terreno. Ne nacque uno spavento nell'accampamento, nella campagna e in tutto il popolo. Perfino la guarnigione e i guastatori si spaventarono. La terra tremò e incusse uno spavento divino. Le sentinelle di Saul, che erano a Gaba di Beniamino, si misero a guardare e videro che il campo si agitava da ogni parte. Saul disse al popolo che era con lui: «Fate l'appello e vedete chi è partito dei nostri». Fecero la rassegna e s'accorsero che mancava Jonata con il suo scudiero. Allora disse Saul ad Achia: «Avvicina l'efod, poiché egli portava l'efod in quei giorni davanti ai figli di Israele. Mentre Saul stava ancora parlando al sacerdote, il tumulto nell'accampamento dei Filistei andava sempre crescendo, e Saul disse al sacerdote: «Ritira la tua mano». Saul convocò tutta la gente che era con lui e andarono fino al luogo della battaglia. Ed ecco, la spada di uno era contro il compagno, un parapiglia enorme. Quegli ebrei che per il passato stavano con i Filistei ed erano saliti con quelli all'accampamento si ribellarono anch'essi per unirsi con gli israeliti che erano con Saul e Jonata. Allora ogni israelita che si era nascosto sulla montagna di Efraim, udito che i Filistei erano in fuga, si misero a tallonarli in battaglia. In quel giorno il Signore salvò Israele. La battaglia andò oltre Bet-Aven. Gli israeliti erano sfiniti in quel giorno, perché Saul fece giurare al popolo: «Maledetto quell'uomo che toccherà cibo fino a questa sera, prima che mi sia vendicato dei miei nemici». Tutto il popolo non assaggiò cibo. Percorsa tutta la regione nella boscaglia, si trovò del miele a fior di terra. Giunto il popolo alla boscaglia, ecco un rivolo di miele, ma nessuno portò la mano alla sua bocca, perché il popolo aveva timore del giuramento. Jonata però, che non aveva sentito quando suo padre aveva fatto fare il giuramento al popolo, stese l'estremità del bastone che aveva nella sua mano, la intinse nel favo di miele e portò la sua mano alla bocca, e i suoi occhi si riaccesero. Un tale del popolo prese la parola e disse: «Tuo padre ha fatto fare un severo giuramento al popolo dicendo: maledetto quell'uomo che toccherà cibo oggi, sebbene il popolo fosse sfinito». Jonata disse: «Mio padre ha fatto un danno al paese. Vedete che i miei occhi si sono illuminati, perché ho appena assaggiato un po' di questo miele. Molto più se il popolo avesse potuto mangiare della preda presa ai suoi nemici. Ora non sarebbe stata più grande la disfatta dei Filistei?» In quel giorno batterono i Filistei da Michmas fino ad Aialon, ma il popolo era del tutto sfinito. Allora il popolo si dette al saccheggio, prese pecore, buoi, vitelli e li sgozzò a terra. La gente però mangiava con tutto il sangue. Fu riferito a Saul: «Ecco, il popolo sta peccando contro il Signore mangiando col sangue». Egli disse: «Voi agite perversamente, rotolate subito verso di me una grande pietra». Poi Saul ordinò: «Spargetevi tra il popolo e ditegli: ognuno mi porti qua il proprio bue e ognuno il suo montone. Lo scannerete qui e poi lo mangerete senza peccare contro il Signore mangiando la carne con il sangue». Tutto il popolo, ognuno con il suo bue a mano, lo condusse quella notte e lo scannarono in quel luogo. Saul costruì un altare al Signore. Fu il primo altare che costruì al Signore. Poi Saul disse: «Scendiamo di notte a inseguire i Filistei, deprediamoli fino alla luce del mattino senza lasciare anima viva tra loro». Gli risposero: «Fa pure tutto quello che piace ai tuoi occhi». Il sacerdote disse: «Avviciniamoci qui a Dio». Saul domandò a Dio: «Posso scendere a inseguire i Filistei? Li darai in mano a Israele?» Ma in quel giorno non gli diede risposta. Allora Saul disse: «Avvicinatevi qua, capi tutti del popolo. Cercate e considerate in che consiste il peccato di oggi, perché per la vita del Signore Salvatore di Israele è certo che costui morrà, anche se fosse Jonata mio figlio». Non ci fu tra tutto il popolo chi osasse rispondergli. Poi disse a tutto Israele: «Voi state da una parte, e io e mio figlio Jonata staremo dall'altra». Il popolo rispose a Saul: «Fa quello che piace ai tuoi occhi». Disse Saul al Signore Dio di Israele: «Perché non hai risposto oggi al tuo servo? Se è colpa in me o in Jonata mio figlio, o Signore Dio di Israele, da Urim. Se invece il peccato è nel tuo popolo Israele, da Tummim». Vennero designati Jonata e Saul, e il popolo uscì libero. Disse Saul: «Gettate la sorte tra me e Jonata, mio figlio». Fu designato Jonata. Allora Saul disse a Jonata: «Raccontami cosa hai fatto». Jonata rispose: «Ho assaggiato appena un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano. Eccomi, che io muoia». Saul soggiunse: «Questo mi faccia Dio e peggio ancora. Tu certamente morrai, Jonata». Ma il popolo disse a Saul: «Dovrà forse morire Jonata che ha procurato questa grande vittoria in Israele? Non sia mai. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello della sua testa, perché ha operato con Dio quest'oggi». Il popolo riscattò Jonata ed egli non morì. Così Saul desistette dall'inseguire i Filistei, e i Filistei se ne andarono al loro paese. Saul consolidò il regno su Israele e fece guerre all'intorno contro tutti i suoi nemici: contro Moab, gli Ammoniti, Edom, i re di Zoba, e contro i Filistei. Ovunque si volgeva, vinceva. Fece prodezze, batté Amalek, liberando Israele dalla mano del suo razziatore. I figli di Saul furono Jonata, Isbaal e Malchisua. Il nome delle sue figlie era Merab, la maggiore, Mical, la minore. Il nome della moglie di Saul era Achinoam, figlia di Achimaas. Il nome del capo del suo esercito, Abner, figlio di Ner, zio di Saul. Chis, padre di Saul, e Ner, padre di Abner, erano figli di Abiel. Ci fu guerra spietata contro i Filistei per tutta la vita di Saul. Ogni uomo prode e ogni persona valorosa che Saul vedeva la prendeva con sé. Samuele disse a Saul: «È stato il Signore a mandarmi a consacrarti re sul suo popolo Israele. Ora dà ascolto alle parole del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: voglio vendicare quello che Amalek ha fatto a Israele quando gli sbarrò la via mentre usciva dall'Egitto. Ora va e colpisci Amalek. Vota all'anatema tutto quello che gli appartiene. Non aver pietà di lui. Uccidi uomini e donne, ragazzi e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini». Saul convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim: 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul avanzò fino alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Saul disse ai Cheniti: «Separatevi, allontanatevi di mezzo agli Amaleciti, affinché io non vi accomuni a loro. Tu, infatti, usasti misericordia a tutti i figli di Israele quando essi salirono dall'Egitto». Così i Cheniti si separarono dagli Amaleciti. Saul colpì Amalek a partire da Avila in direzione di Sur, che è ad oriente dell'Egitto. Catturò vivo Agag, re di Amalek, mentre passò tutto il popolo a fil di spada. Saul e il popolo

e tu ne avrai beneficio. Saul disse ai suoi cortigiani: cercatemi per favore un uomo che sappia suonare bene e conducetemelo. Uno dei suoi cortigiani prese la parola e disse: ecco, ho veduto un figlio di Jesse il Betlemita. Sa suonare, è un prode e un guerriero, abile parlatore e uomo di bella presenza, e il Signore è con lui. Allora Saul mandò dei messaggeri a Jesse dicendo: mandami tuo figlio Davide, che è con il gregge. Jesse prese un carico di pane, un'otre di vino e un capretto, e li mandò a Saul per mezzo di Davide suo figlio. Davide, giunto da Saul, rimase al suo servizio. Saul gli si affezionò molto, e Davide diventò suo scudiero. Saul mandò a dire a Jesse: rimanga Davide al mio servizio, perché egli ha trovato benevolenza ai miei occhi. Così, quando lo spirito di Dio era su di Saul, Davide prendeva la cetra e suonava con la sua mano. Saul trovava la calma, ne aveva un beneficio, e lo spirito malvagio si allontanava da lui. I Filistei radunarono le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano da un lato della collina, Israele stava dall'altro lato della collina, e fra essi vi era la valle. Uscì dagli accampamenti dei Filistei un duellante di nome Golia di Gat, la cui altezza era di 6 cubiti e un palmo. Aveva sul capo un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a scaglie. Il peso della corazza era di 5.000 sicli di bronzo. Aveva gambali di bronzo ai suoi stinchi e un giavellotto di bronzo ad armacollo. Il legno della sua lancia era come il subbio del tessitore, e la punta della sua lancia pesava 600 sicli di ferro. Il portatore dello scudo marciava davanti a lui. Si fermò e, gridando verso le schiere di Israele, disse loro: perché siete usciti a preparare una battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda in campo con me. Se lui avrà la forza di combattere con me e mi batterà, noi saremo vostri schiavi. Ma se io prevarrò su di lui e lo batterò, voi sarete nostri schiavi e ci servirete. Il Filisteo soggiunse: io ho vilipeso le schiere di Israele in questo giorno. Datemi un uomo per combattere insieme. Saul e tutto Israele, udite le parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero gran paura. Davide era figlio di un'efratita di Betlemme di Giuda, di nome Jesse, che aveva 8 figli. Ai giorni di Saul quest'uomo era vecchio, avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati in guerra al seguito di Saul. Il nome dei 3 figli di Jesse andati in guerra erano Eliab il primogenito, Abinadab il secondo, Samma il terzo. Davide era il più piccolo. I 3 più grandi dunque erano andati al seguito di Saul. Davide andava e veniva da Saul per pascolare il gregge di suo padre a Betlemme. Il Filisteo si faceva avanti mattina e sera e si presentò così per 40 giorni. Jesse disse a suo figlio Davide: prendi per i tuoi fratelli un efa di questi semi abbrustoliti e questi 10 pani. e portali in fretta al campo per i tuoi fratelli. E queste 10 formelle di cacio le offrirai al capo dei 1000. Ti informerai dei tuoi fratelli se stanno bene, e poi ritirerai il loro pegno. Essi stanno con Saul e con tutto Israele alla valle del Terebinto a far la guerra contro i Filistei. La mattina presto Davide si levò, affidò il gregge al guardiano, prese la roba e partì come gli aveva comandato Jesse. Giunse dove erano i carri, mentre le truppe uscivano per schierarsi e mandavano il grido di battaglia. Israele e i Filistei si erano schierati l'uno contro l'altro. Davide affidò gli oggetti che aveva indosso al custode dei bagagli e corse allo schieramento. Giunto, chiese ai fratelli notizie sulla salute. Egli stava parlando con loro, quando ecco l'uomo sfidante, il filisteo di Gat di nome Golia, uscire dalle schiere dei Filistei e pronunziare le solite parole. Davide ascoltò. Tutti gli israeliti, invece, quando videro quell'uomo, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Allora un israelita disse: «Vedete quell'uomo che avanza? Avanza proprio per sfidare Israele. Ma colui che lo colpirà sarà ricolmato di grandi ricchezze dal re, gli darà sua figlia ed esenterà dai tributi la casa di suo padre in Israele». Davide domandò agli uomini che stavano presso di lui: «Che cosa sarà fatto a quell'uomo che colpirà questo filisteo e allontanerà la vergogna da Israele? Ma chi è questo filisteo incirconciso che abbia potuto sfidare le schiere del Dio vivo?» Il popolo gli rispose allo stesso modo: «Così sarà fatto a colui che lo colpirà». Suo fratello maggiore, Eliab, lo sentì parlare con gli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: «Perché sei venuto giù? A chi hai affidato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua arroganza e la malizia del tuo cuore. Certo, sei sceso per vedere la battaglia». Rispose Davide: «Che ho fatto ora? Non è stata solo una parola?» E si allontanò da lui, volgendosi verso un altro. Fece la stessa domanda, e il popolo gli dette la stessa risposta di prima. Le parole pronunciate da Davide furono udite e riportate a Saul, il quale lo mandò a chiamare. Davide disse a Saul: «Nessuno si scoraggia a causa di lui. Il tuo servo andrà a combattere con quel filisteo». Saul disse a Davide: «Non puoi andare contro quel filisteo a combattere con lui, perché tu sei un ragazzo e lui è un uomo agguerrito fin dalla sua giovinezza». Davide rispose a Saul: «Il tuo servo faceva il pastore del gregge di suo padre. Quando veniva il leone o l'orso per prendere una pecora del gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e gliela strappavo dalla bocca. Lui si avventava contro di me, ma io lo afferravo per la sua mascella e colpendolo lo uccidevo. Sì, perfino il leone, perfino l'orso ha colpito il tuo servo. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di loro, perché ha sfidato le schiere del Dio vivo». Davide aggiunse: «Il Signore che mi ha salvato dalla zampa del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà dalla mano di quel filisteo». Allora Saul disse a Davide: «Va, il Signore sarà con te». Saul fece rivestire Davide con la sua casacca, pose sul suo capo l'elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide si cinse della spada di lui sopra la casacca e provò invano a camminare, perché non vi era abituato. Davide disse a Saul: Non riesco a camminare con queste cose perché non ci sono abituato. Così Davide se le tolse di dosso. Prese invece il suo bastone in mano, si scelse 5 lucidi ciottoli dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore e nella tasca. Poi, con la sua fionda in mano, si avviò verso il Filisteo. Il Filisteo si avvicinava sempre più a Davide, mentre l'uomo che portava lo scudo lo precedeva. Il Filisteo guardò fisso e, scorto Davide, lo disprezzò perché era giovane, rosso e di bella presenza. Il Filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane io, che tu vieni contro di me con dei bastoni?» Poi il Filisteo maledisse Davide per i suoi dèi. Il Filisteo apostrofò Davide: «Avvicinati, che voglio dare la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie selvagge». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni contro di me con la spada, la lancia e il giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai sfidato. Quest'oggi il Signore ti consegnerà in mio potere, e io ti colpirò, mozzerò la tua testa da te, e darò in questo giorno la tua carogna e le carogne delle truppe dei Filistei agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra saprà che Israele ha un Dio. Tutto questo assembramento conoscerà che il Signore non concede la vittoria con la spada e l'asta, perché al Signore appartiene la guerra e vi ha consegnato il nostro potere». Allora il Filisteo prese ad avvicinarsi ancor più verso Davide. Davide si affrettò e corse verso il campo contro il Filisteo. Davide infilò la sua mano nella sacca, ne trasse fuori un ciottolo, lo frombolò e colpì il Filisteo alla fronte. Il sasso si conficcò nella sua fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide prevalse sul Filisteo con la fionda e con il ciottolo, colpendolo e uccidendolo, benché non avesse alcuna spada in mano. Davide corse e si fermò sul Filisteo. Afferrò la spada di lui, la estrasse dal fodero e lo uccise troncandogli con essa la testa. Quando i Filistei videro che il loro campione era morto, si dettero alla fuga. Allora si levarono gli uomini di Israele e di Giuda e, gridando, inseguirono i Filistei fino allo sbocco della valle e fino alle porte di Accaron. Gli uccisi dei Filistei caddero sulla via di Saaraim fino a Gat e a Accaron. Poi i figli di Israele ritornarono dall'inseguimento dei Filistei e si dettero a saccheggiare i loro accampamenti. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme, mentre le sue armi le depose nella propria tenda. Quando Saul aveva visto Davide uscire contro il Filisteo, disse ad Abner, capo dell'esercito: «Di chi è figlio questo giovane, o Abner?» Abner rispose: «Per la tua vita, o re, non lo so». Il re riprese: «Domanda tu stesso di chi è figlio il ragazzo». Quando Davide ritornò dopo aver ucciso il Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul con la testa del Filisteo ancora in mano. Saul lo interrogò: «Di chi sei figlio, giovanotto?» Davide rispose: «Sono figlio di Jesse il Betlemita, tuo servo». Quando Davide ebbe finito di parlare a Saul, l'anima di Gionata si sentì legata all'anima di Davide. Gionata lo amò come la sua anima. Saul lo trattenne quel giorno e non gli permise di ritornare a casa di suo padre. Gionata fece un patto con Davide perché lo amava come la sua anima. Gionata si tolse il proprio manto che aveva indosso e lo dette a Davide, così pure le sue vesti e perfino la sua spada, il suo arco e la sua cintura. Davide aveva successo nelle scorrerie ovunque Saul lo mandasse, cosicché Saul lo prepose agli uomini di guerra. Era ben visto da tutto il popolo e perfino dai cortigiani di Saul. Al loro rientro, quando Davide ritornava dopo aver battuto il Filisteo, le donne uscirono incontro al re Saul da tutte le città di Israele per cantare danzando con tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne danzavano ripetendo il ritornello. Saul colpì le sue migliaia, ma Davide le sue miriadi. Saul se ne adirò fortemente e questa cosa gli dispiacque. Diceva: a Davide hanno attribuito le miriadi e a me hanno dato le migliaia. Ora gli manca solo il regno. Così Saul guardò Davide con gelosia da quel giorno in poi. L'indomani uno spirito maligno di Dio irruppe su Saul e questi si mise a delirare in mezzo alla casa mentre Davide suonava con la sua mano come gli altri giorni. Saul aveva la sua lancia in mano. Saul scagliò la lancia pensando: trafiggerò Davide alla parete. Ma Davide si eclissò dalla sua presenza due volte. Saul aveva timore della presenza di Davide, perché il Signore era con lui e si era ritirato da Saul. Allora Saul se lo tolse da presso e ne fece un capo di mille. Ed egli andava e veniva alla testa della truppa. Davide aveva successo in ogni sua impresa, e il Signore era con lui. Saul, constatando che egli era molto fortunato, ne aveva timore. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide, perché era lui che andava e veniva davanti a loro. Saul propose a Davide: ecco la mia figlia maggiore, Merab, te la darò per moglie. Solo mostrati valoroso e combatti le battaglie del Signore. Infatti Saul aveva pensato: non sia la mano mia contro di lui, ma quella dei Filistei. Davide rispose a Saul: chi sono io? E cosa è la famiglia di mio padre in Israele perché io possa diventare genero del re? Quando però venne il momento di dare Merab, figlia di Saul, a Davide, essa fu data in moglie ad Adriel di Mecola. Mical, figlia di Saul, si era invece innamorata di Davide. Lo riferirono a Saul, al quale piacque la cosa. Saul pensava: gliela voglio dare, perché ella sia un laccio per lui e sia la mano dei Filistei contro di lui. Così Saul disse due volte a Davide: sarai mio genero quest'oggi. Saul ordinò ai suoi cortigiani: parlate in segreto a Davide e dite: ecco, il re prova affetto per te e tutti i suoi servi ti vogliono bene. Diventa dunque genero del re. I cortigiani di Saul riportarono queste cose all'orecchio di Davide, ma egli rispose: è piccola cosa ai vostri occhi diventare genero del re? Io sono un uomo povero e spregevole. I cortigiani di Saul gli riferirono: Davide ha parlato in questi termini. Saul disse: così direte a Davide: il re non desidera la dote, ma 100 prepuzzi dei Filistei per fare vendetta contro i nemici del re. Saul pensava di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I cortigiani riferirono a Davide quelle proposte, e la proposta sembrò buona agli occhi di Davide per diventare genero del re. Non erano trascorsi i giorni fissati che Davide si levò e partì con i suoi uomini e colpì tra i Filistei 200 uomini. Davide riportò i loro prepuzzi che furono consegnati al re in numero esatto per diventare genero del re. Allora Saul gli dette sua figlia Mical per moglie. Saul vide e comprese che il Signore era con Davide, e Mical, sua figlia, lo amava. Allora Saul ebbe ancor più timore di Davide e fu per tutti i giorni ostile a Davide. I capi dei Filistei fecero delle incursioni, ma ogni volta che le facevano, Davide aveva più successo di tutti gli altri ministri di Saul. Così il suo nome diventò molto famoso. Saul comunicò a suo figlio Jonathan e a tutti i suoi cortigiani di voler uccidere Davide, ma Jonathan, figlio di Saul, aveva molto affetto per Davide e lo avvertì dicendo: «Mio padre Saul sta cercando di farti morire. Fa dunque attenzione domattina, rimani in un luogo riparato e nasconditi. Io uscirò e rimarrò accanto a mio padre nella campagna dove tu ti trovi e parlerò di te a mio padre. Vedrò che cosa succede e te lo farò sapere». Jonathan parlò bene di Davide a suo padre Saul e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, perché egli non ha mancato contro di te, anzi le sue imprese ti sono molto utili. Egli ha esposto la sua vita a rischio, ha battuto il Filisteo, e il Signore ha operato una grande vittoria per Israele intero. Hai veduto e ti sei rallegrato. Perché ora vuoi peccare contro un sangue innocente, facendo morire Davide senza motivo?» Saul dette ascolto alla voce di Jonathan e giurò: «Per la vita del Signore non morrà». Jonathan chiamò Davide e gli riferì tutte quelle cose. Poi Jonathan ricondusse Davide da Saul, ed egli stette alla presenza di lui come per il passato. Vi fu di nuovo la guerra. Allora Davide uscì e diede battaglia ai Filistei, inflisse loro una grande disfatta, ed essi si dettero alla fuga davanti a lui. Uno spirito maligno del Signore fu su Saul, mentre questi stava nella sua casa con la sua lancia in pugno e Davide stava suonando la cetra. Saul cercò di colpire Davide con la lancia contro la parete, ma questi si allontanò da Saul, che infisse la lancia nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo quella notte. Saul inviò dei messi alla casa di Davide per sorvegliarlo e farlo morire il mattino dopo. Ma sua moglie, Mical, informò Davide dicendo: «Se non ti metti in salvo questa notte, tu domani sarai morto». Allora Mical fece scendere Davide per la finestra. Egli partì, prese la fuga e si mise in salvo. Mical prese poi i terafim e li pose presso il letto, al suo capezzale mise un tessuto di capra e lo coprì con un panno. Quando Saul mandò messi per prendere Davide, ella disse: «È malato». Ma Saul rinviò i messi per vedere Davide e disse loro: «Portatemelo qua nel letto per ucciderlo». Arrivarono i messi, ma ecco che presso il letto c'erano i terafim e il panno di capra per capezzale. Saul disse a Mical: «Perché mi hai ingannato così, mandando via il mio nemico perché si mettesse in salvo?» Mical rispose a Saul: «È lui che mi ha detto: lasciami andare. Perché dovrei farti morire?» Davide fuggì e si mise in salvo. Andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che gli aveva fatto Saul. Allora lui e Samuele se ne andarono ad abitare a Naioth. La cosa fu riferita a Saul: «Ecco, Davide è a Naioth di Rama». Saul spedì messaggeri per catturare Davide, ma quando essi videro la comunità dei profeti in atto di profetare e Samuele che li presiedeva, lo Spirito di Dio venne sui messaggeri di Saul e anch'essi si misero ad agire come profeti.

tra la mia discendenza e la tua discendenza in eterno. Davide si alzò e partì, mentre Gionata rientrò in città. Davide giunse a Nob dal sacerdote Achimelech. Achimelech andò incontro a Davide con trepidazione, dicendogli: «Perché sei tu solo e non c'è nessuno con te?» Davide rispose al sacerdote Achimelech: «Il re mi ha comandato una certa cosa e mi ha detto: nessuno sappia niente della cosa per cui io ti mando e che ti ho comandato. Agli uomini ho dato ordini per il luogo tale e tale. E ora che cos'hai sotto mano? Dammi 5 pani o quello che ti capita.» Il sacerdote rispose a Davide: «Non ho pane comune sotto mano, c'è solo pane sacro, purché i giovani si siano astenuti almeno dalla donna.» Davide rispose al sacerdote: «Certo, ci è interdetta la donna come per il passato. Ogni volta che esco, i giovani sono mondi, pur essendo un viaggio profano. Quanto più oggi sono mondi.» Allora il sacerdote gli dette il pane sacro, perché non c'era altro pane, se non il pane della proposizione tolto dalla presenza del Signore, per sostituirlo col pane caldo nel giorno in cui viene tolto. Ma in quel giorno vi era lì un uomo dei servi di Saul, trattenuto alla presenza del Signore, di nome Doeg, l'Idumeo, capo dei pastori di Saul. Davide domandò ad Achimelech: «Non c'è niente qui sotto mano, una lancia o una spada? Non ho preso con me né la mia spada nelle mie armi, perché l'incarico del re era urgente.» Il sacerdote rispose: «C'è la spada di Golia il Filisteo, che tu hai colpito nella valle del Terebinto. Eccola avvolta in un panno dietro l'efod. Se te la vuoi prendere, prendila, perché qui non ce n'è un'altra, ad eccezione di essa.» Davide disse: «Non ve n'è una come quella, dammela.» Davide si levò e se ne fuggì in quel giorno dalla presenza di Saul e andò da Achis, re di Gat. Ma i servi dissero ad Achis: «Questo non è Davide, re del paese? Non era per lui che si ripeteva nelle danze: Saul colpì le sue migliaia, ma Davide le sue miriadi?» Davide si preoccupò di queste parole ed ebbe molta paura di Achis, re di Gat. Allora cambiò modo di agire sotto i loro occhi e simulò pazzia tra le loro mani. Scarabocchiava sui battenti della porta e faceva colare bava sulla sua barba. Achis disse ai suoi servi: «Ecco, vedete, l'uomo è matto. Perché me lo avete condotto? Ho forse bisogno di matti che mi conducete questo tale per fare il pazzo alle mie spalle? Deve entrare questo tale in casa mia?» Davide partì di là e si mise in salvo nella grotta di Adullam. Quando lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre, scesero laggiù da lui. Si radunò intorno a lui chiunque era in strettezze, chiunque aveva un creditore e chiunque aveva la vita amareggiata. Egli diventò loro capo. Erano con lui circa 400 uomini. Poi Davide andò da lì a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: «Possa ritirarsi mio padre con mia madre presso di voi fino a che io sappia quello che Dio farà per me.» Li presentò al re di Moab, ed essi rimasero con lui tutto il tempo della permanenza di Davide nella fortezza. Il profeta Gad disse a Davide: «Non rimanere nella fortezza, ma inoltrati nella terra di Giuda.» Davide partì e si inoltrò nella foresta di Cheret. Saul

«Questa è la tua voce, figlio mio Davide?» E Saul, alzando grida, pianse. Poi disse a Davide: «Tu sei più retto di me, perché tu mi hai reso del bene, mentre io ti ho reso del male. E tu oggi hai manifestato il bene che hai fatto verso di me, in quanto il Signore mi aveva consegnato nella tua mano, ma tu non mi hai ucciso. Quando un uomo incontra il suo nemico, lo lascia andare tranquillamente per la sua via? Il Signore ti renderà del bene per quello che mi hai fatto quest'oggi. E ora ecco, io so che tu certamente sarai re, e il potere regale su Israele sarà stabile nella tua mano. Or dunque, giurami per il Signore che non sopprimerai la mia discendenza dopo di me, e che non farai scomparire il mio nome dal casato di mio padre». Davide lo giurò a Saul, e Saul se ne ritornò alla sua casa, mentre Davide e i suoi uomini salirono alla fortezza. Samuele morì, e gli Israeliti si radunarono, fecero i riti nella sua casa a Rama. Davide si mosse e discese verso il deserto di Paran. C'era a Maon un uomo che aveva le sue proprietà a Carmel, e quest'uomo era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capre. Egli si trovava a Carmel durante la tosatura del suo gregge. Quest'uomo si chiamava Nabal e sua moglie Abigail. La donna era dotata di buon senso e di bell'aspetto, mentre l'uomo era duro e di cattive maniere. Era un calebita. Quando Davide udì nel deserto che Nabal stava tosando il suo gregge, mandò 10 giovanotti. Davide disse ai giovanotti: «Salite a Carmel, andate da Nabal e salutatelo a nome mio. Direte così: evviva, pace a te, pace alla tua casa, pace a tutte le tue cose. Ho inteso dire adesso che hai i tosatori. Or quando i tuoi pastori sono stati presso di noi, non li abbiamo molestati, e non è mancato niente delle loro cose durante tutto il tempo della loro permanenza a Carmel. Interroga i tuoi servi e ti informeranno. Trovino questi giovanotti benevolenza ai tuoi occhi, perché siamo venuti per una bella festa. Dona di grazia ciò che ti capita in mano ai tuoi servi e al tuo figlio Davide». I giovanotti di Davide andarono, riferirono a Nabal tutte quelle parole nel nome di Davide e rimasero in attesa. Ma Nabal rispose ai servi di Davide: «Chi è Davide? E chi è il figlio di Jesse? Oggi sono tanti i servi che scappano dalla presenza dei loro padroni. Prenderò dunque il pane mio e l'acqua mia, gli animali miei che ho ucciso per i miei tosatori, e dovrò darli a gente che non so di dove sia?» I giovanotti di Davide ripresero la loro strada e fecero ritorno. Al loro arrivo gli riferirono tutte quelle cose. Davide disse ai suoi uomini: «Ognuno si cinga la spada». Essi cinsero ognuno la propria spada. Anche Davide cinse la sua spada. Circa 400 uomini salirono dietro Davide e 200 rimasero presso i bagagli. Uno dei servi riferì ad Abigail, moglie di Nabal, così: «Ecco, Davide ha mandato messaggeri dal deserto per salutare il nostro padrone, ma lui ha inveito contro di loro. Questi uomini invece sono stati molto buoni con noi. Non abbiamo ricevuto molestie, né ci è mancato niente per tutto il tempo che abbiamo girovagato insieme con loro quando stavamo nella steppa. Essi sono stati intorno a noi come un muro di protezione notte e giorno per tutto il tempo in cui siamo stati presso di loro mentre pascolavamo il gregge. Ma ora interessati e vedi quello che puoi fare. Certamente è preparata una sventura per il nostro padrone e contro tutta la sua casa. Egli è un uomo così perverso che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 pecore belle e cucinate, 5 misure di semi abbrustoliti, 100 grappoli di uva passa e 200 tortelle di fichi secchi, e li caricò sugli asini. Poi disse ai suoi servi: «Precedetemi, io vengo dietro a voi». Essa non disse niente a suo marito Nabal. Or mentre costei, cavalcando un asino, scendeva riparata dal monte, Davide e i suoi uomini stavano discendendo verso di lei, ed essa si imbatté in loro. Davide aveva detto: «Ah, mi sono ingannato a proteggere tutto quello che appartiene a questo tale nel deserto, e non gli è mancato niente di tutto quello che aveva. Mi ha reso male per bene. Dio faccia così a Davide e peggio ancora, se di tutto quello che possiede lascerò sussistere fino al mattino uno che faccia acqua al muro». Quando Abigail vide Davide, scese in fretta dall'asino e si prostrò fino a terra davanti a Davide. Cadendo ai suoi piedi disse: «Mia, o mio signore, mia è la colpa, che la tua serva possa parlare alle tue orecchie e tu ascolta le parole della tua serva. Il mio padrone non faccia caso a quella razza d'uomo, a Nabal, perché lui è proprio come il suo nome, si chiama stolto ed è pieno di stoltezza. Ma io, tua serva, non ho veduto i giovani che il mio signore ha inviato. Ma ora, per la vita del Signore e per la tua anima, o mio signore, poiché il Signore ti ha impedito di giungere al sangue e di farti giustizia di tua propria mano, siano come Nabal i tuoi nemici e quelli che cercano il male del mio signore. E ora questa benedizione che la tua serva ha portato al mio signore è donata ai giovani che camminano sui passi del mio signore. Perdona la mancanza della tua serva. Sì, certamente il Signore farà al mio signore una casa stabile, perché il mio signore combatte le guerre del Signore e non si trova in te alcun male fin dai tuoi primi giorni. Un uomo si è levato per inseguirti e per fare ricerca della tua vita, ma la vita del mio Signore è racchiusa nello scrigno della vita presso il Signore tuo Dio, mentre la vita dei tuoi nemici la frombolerà col cavo della fionda. E quando avverrà che il Signore avrà fatto al mio Signore tutto quel bene che ha predetto a tuo riguardo, costituendoti principe su Israele, allora questa cosa non sarà di rimorso e di ansietà per il cuore del mio Signore. L'aver effuso il sangue inutilmente e l'esserti fatto giustizia con la tua mano, o mio Signore. E quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ti ricorderai della tua serva». Davide rispose ad Abigail: «Benedetto è il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno, e benedetta tu stessa, che mi hai impedito quest'oggi di giungere al sangue e di farmi giustizia di mia mano. Altrimenti, per la vita del Signore, Dio di Israele, che mi ha trattenuto dal farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, non sarebbe rimasto certo a Nabal fino alla luce del mattino uno che facesse acqua al muro». Allora David accettò dalla sua mano quelle cose che ella gli aveva portato e le disse: «Ritorna in pace alla tua casa. Vedi, ho dato ascolto alla tua voce e ho accolto la tua presenza». Abigail ritornò da Nabal. Egli teneva un convito nella sua casa come un convito di re. Nabal aveva il cuore allegro ed era ubriaco fradicio. Così essa non gli fece sapere niente, né poco né molto, fino alla luce del mattino.

Essi abitavano la regione che va da Telam verso Sur, fino alla terra d'Egitto. Davide devastava la regione e non lasciava vivo né uomo né donna, mentre catturava greggi e armenti, asini e cammelli e indumenti. Al ritorno andava da Achis. Achis domandava: «Dove avete fatto razzie oggi?» Davide rispondeva: «Contro il Negeb di Giuda, contro il Negeb dei Gerameeliti, contro il Negeb dei Keniti». Davide non lasciava vivo né uomo né donna da riportare a Gat, pensando: «Affinché non diano notizie a nostro riguardo», dicendo: «Così ha fatto Davide». Tale fu la sua condotta tutti i giorni in cui rimase nella steppa dei Filistei. Achis ebbe fiducia in Davide, pensando: «Certamente è diventato odioso al suo popolo Israele e sarà per sempre mio servo». In quei giorni i Filistei radunarono le loro truppe per combattere contro Israele. Allora Achis disse a Davide: «Sappi bene che dovrai uscire in campo con me, tu e gli uomini tuoi». Davide rispose ad Achis: «Benissimo, tu vedrai quello che farà il tuo servo». Achis soggiunse: «D'accordo, ti costituirò per sempre mia guardia del corpo». Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto lutto e lo avevano seppellito a Rama, sua città. Saul aveva fatto scomparire dal paese i negromanti e gli indovini. Quando i Filistei si furono radunati, andarono e si accamparono a Sunam. Anche Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Saul, al vedere l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò forte. Allora Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli dette risposta né con sogni né con gli Urim né per mezzo di profeti. Allora Saul disse ai suoi servi: «Cercatemi una donna che possieda il potere evocatore, perché voglio andare da essa per consultarla». I suoi servi risposero: «Ecco, una donna che possiede il potere di evocare sta a Endor». Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due altri uomini. Giunsero dalla donna di notte. Egli disse: «Su, praticami la divinazione per mezzo di negromanzie, evocandomi colui che io ti dirò». Gli rispose la donna: «Ecco, tu sai quello che ha compiuto Saul, che ha fatto scomparire i negromanti e gli indovini dal paese. Perché tendi insidia alla mia vita per farmi morire?» Allora Saul le giurò per il Signore: «Per la vita del Signore non subirai alcun castigo per questo fatto». La donna domandò: «Chi devo evocarti?» Rispose: «Evocami Samuele». Quando la donna vide Samuele, gridò a gran voce e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul?» Le rispose il re: «Non devi aver paura. Su, che cosa vedi?» La donna rispose a Saul: «Vedo salire divinità dalla terra». Le domandò: «Qual è il suo aspetto?» Ella rispose: «Un uomo vecchio sale avvolto in un manto». Saul capì che quello era Samuele. Cadde con la faccia a terra e si prostrò. Samuele domandò a Saul: «Perché mi hai molestato evocandomi?» Rispose Saul: «Mi trovo in una grande angustia. I Filistei mi fanno guerra e Dio si è allontanato da me. Non mi risponde più né per mezzo dei profeti né per mezzo dei sogni. Allora ho voluto chiamarti perché mi indichi cosa devo fare». Samuele rispose: «Perché consulti me, se il Signore si è allontanato da te ed è diventato tuo avversario?»

ci ha protetti e ha consegnato in nostro potere quella banda venuta contro di noi. Chi vi darà ascolto in questa proposta? Perché quale la parte di chi scende in battaglia, tale la parte di chi rimane presso i bagagli. Faranno le parti insieme. Da quel giorno in poi impose questa decisione come legge e norma a Israele fino ad oggi. Quando Davide rientrò a Ziglag, mandò parte della preda agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: «Eccovi una benedizione, parte della preda dei nemici del Signore, a quelli di Betel, a quelli di Rama nel Negeb, a quelli di Yattir, a quelli di Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli di Estemoa, a quelli di Rakal, a quelli delle città degli Ierachmeeliti, a quelli delle città dei Keniti, a quelli di Corma, a quelli di Borasan, a quelli di Atak, a quelli di Hebron e a tutte le località dove Davide era andato vagando con i suoi uomini. Intanto i Filistei ingaggiarono battaglia contro Israele e gli uomini di Israele si dettero alla fuga di fronte ai Filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe. I Filistei si gettarono addosso a Saul e ai suoi figli, così colpirono Jonata, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. La battaglia si aggravò contro Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la tua spada e trafiggimi con essa, affinché non vengano quegli incirconcisi, mi trafiggano e facciano sevizie su di me». Ma il suo scudiero non volle, perché era pieno di timore. Allora Saul prese la spada e si gettò su di essa. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, anch'egli si gettò sulla propria spada e morì con lui. In quel giorno morirono insieme Saul, i suoi tre figli, il suo scudiero e tutti i suoi uomini. Quando gli israeliti che erano di là della valle e quelli che erano di là del Giordano videro che gli uomini di Israele erano fuggiti e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono. Allora vennero i Filistei e vi si stabilirono. Il giorno seguente i Filistei andarono a spogliare gli uccisi e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gelboe. Essi troncarono la testa di lui e lo spogliarono delle armi. Poi mandarono in giro nel paese dei Filistei a dare la bella notizia nel tempio dei loro idoli e al popolo. Deposero le sue armi nel tempio di Astarte, mentre il suo cadavere lo affissero alle mura di Bet-Sean. Gli abitanti di Jabes di Galaad udirono quello che i Filistei avevano fatto a Saul. Allora si alzarono tutti gli uomini valorosi e, dopo aver viaggiato tutta la notte, presero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Bet-Sean. Ritornarono a Jabes, dove li bruciarono. Poi prese le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco a Jabes e fecero digiuno per 7 giorni.